39 ombre all'orizzonte. Anna aveva deciso di accompagnare Louis in Inghilterra. Erano stati necessari molti mesi perché arrivasse a questa decisione, ma una volta presa si sentì sollevata. Il re si rifiutava persino di discutere l'eventualità che lei lasciasse Bangkok. «Ma'am, lei è pigra, è ingrata!» La rimproverava ogni volta che sollevava il problema. Perché fosse ingrata dal momento che lui non aveva mai rispettato l'impegno di aumentare lo stipendio, difficile dire. Occorsero 6 mesi per ottenere a fatica l'autorizzazione e anche allora Mongkut non le avrebbe permesso di andare se non avesse promesso di tornare entro 6 mesi. Accettò con riserva dal momento che la sua salute era così compromessa che non sapeva se 6 mesi sarebbero stati sufficienti a riprendersi. Erano 5 anni che non vedeva Avis, sua figlia, che adesso ne aveva 12. Louis aveva solo un anno in meno ed era giunto il momento che fosse inserito in una scuola regolare. Una corte orientale, con la sua influenza snervante, non era il luogo ideale in cui un giovane inglese potesse passare l'adolescenza. La sua influenza sul re, più grande di quanto non fosse mai stata, era un buon motivo per non partire. Le sue controversie sembravano aver migliorato la sua posizione. Le 3 ore che trascorreva con il principe Chulalongkorn Longhorn ogni sera nella biblioteca del nuovo palazzo erano un altro incentivo. Non era più il bambino impressionabile che era stato prima del noviziato, ma rispondeva ancora al suo insegnamento. Stavano parlando della vita di Abramo Lincoln. La storia del grande uomo era familiare al principe per i continui riferimenti che Anna aveva fatto nel corso degli anni. Come gli altri allievi più grandi, il principe aveva letto la proclamazione dell'emancipazione e aveva seguito gli eventi della guerra civile. Quella sera, con Anna, discuteva della tragica fine del presidente che aveva lasciato un profondo segno nel modo di pensare del giovane principe. Si sporse sul tavolo con gli occhi lucidi per la determinazione. «Memcha, se regnerò sul Siam, voglio regnare su un paese libero, non di schiavi. Sarò orgoglioso di riportare il regno alla sua costituzione originale, sotto cui fu fondato da una piccola colonia buddista molti secoli fa. Avevano lasciato Magadha, il paese di origine, per sfuggire alle persecuzioni dei preti bramini. Chiamarono il paese che avevano scelto Muang Thai, che significa il paese dei liberi. Forse un giorno potrò chiamarlo con lo stesso nome». Anna guardò il viso ardente del ragazzo davanti a lei e sperò che potesse realizzare il suo sogno. Era calmo e tranquillo. A differenza del padre, che apparteneva solo per metà al nuovo mondo, Chulalongkorn vi apparteneva completamente. In parte era merito di Anna e ne era contenta. Nell'inverno del 1867 nessuno avrebbe potuto prevedere se sarebbe rimasto per lui un regno su cui governare. In dicembre il signor Obare aveva creato un altro grosso scandalo. Era ancora deciso a costringere il re ad abbandonare le rivendicazioni su Battambang e Siem Reap. Si era convinto che a ostacolare il suo proposito non era il re ma il Kralahom, perciò aveva richiesto che venisse rimosso dalla commissione incaricata di dare una risposta alle istanze francesi. Questa risposta avrebbe dovuto essere portata in Francia dal figlio del Kralahom, Pia Suriwang. Il re gli aveva detto che non era in suo potere rimuovere il Kralahom dal momento che era membro ex officio della commissione. La faccenda aveva fatto infuriare il signor Obare, che in seguito aveva avuto delle difficoltà a ottenere udienza dal re e sospettava che quest'ultimo stesse aspettando la partenza dell'ambasciata. Il 14 dicembre il signor Lamache lo informò che il re nel pomeriggio si sarebbe trovato nei giardini fuori dei cancelli del palazzo per recarsi in un tempio vicino. Il signor Lamache sarebbe stato presente con 300 soldati in divisa da parata. Il signor Obare, che aveva continuato a coltivare la sua ira, passò per caso durante le esercitazioni e sempre per caso era lì quando passarono la corte e il re, che fu sorpreso di vederlo. Ordinò che fermassero il palanchino. «Perché è venuto?» chiese. Il console replicò che stava passeggiando, ma dal momento che Sua Maestà era opportunamente passato, c'era una questione che voleva discutere con lui. Si tolse un foglio di tasca e si lanciò in una diatriba contro il Kralahom, affermando che sarebbe stata una buona idea sostituirlo con qualcuno che non voleva danneggiare le relazioni tra i due paesi. Si spinse persino a suggerire un nome. Alla fine minacciò una guerra se Sua Maestà avesse rifiutato di adeguarsi alle richieste francesi, sia per quanto riguardava il Kralahom, sia per la questione della Cambogia. Il re si infuriò immediatamente, al punto da dimenticare il suo timore dei francesi. Ordinò al console di sparire, rifiutandosi di discutere. Il signor Aubaret, conscio dell'irregolarità della procedura, cercò di concludere il colloquio stringendo la mano del re, ma il re lo ignorò, fingendo di non accorgersi del gesto. Si rivolse ai figli che erano dietro il palanchino e cercò di stringere loro la mano, ma fu trattato con la stessa alterigia. Il console si allontanò verso nord col cappello in mano e a testa china. Il re, rinunciando ad andare al tempio, si ritirò nel palazzo. Il recorder di Bangkok commentò l'incidente. Considerando quello che il signor Aubaret ha già fatto, non ci sorprenderebbe scoprire che coglierà l'occasione per muovere terra e cielo e far sembrare che Sua Maestà ha insultato l'imperatore di Francia e che si tratta di un casus belli, che all'esercito francese debba essere ordinato di togliere dai piedi il primo ministro, rimuovendo così ogni serio ostacolo alla dominazione francese in Siam. Ci sembra infatti che l'istanza fatta al re del Siam equivalga a chiedergli di tagliare il braccio destro del governo, togliergli l'occhio e chiudergli entrambe le orecchie. All'interno del palazzo regnava il panico. Gli astrologi, i maghi e i saggi furono convocati, i quali, dopo aver consultato le stelle e gli oracoli, sentenziarono: «Il momento è pieno di cattivi presagi, che Vostra Maestà eriga un nuovo cancello a est e a ovest». Alla fine di ogni anno, un filo di cotone con 7 fibre, consacrato dai sacerdoti, era fatto passare intorno ai muri del palazzo. Dal tramonto all'alba, da tutti i forti si sparavano cannonate per scacciare gli spiriti malvagi che avevano infestato l'anno passato. In previsione della grave situazione, questo non fu considerato sufficiente e perciò fu necessario costruire i cancelli. Furono scavate 2 grosse buche fuori dei cancelli che proteggevano a est e a ovest il palazzo. Quando tutto fu pronto, il San Luang piazzò lì vicino 12 ufficiali fino all'alba. 2 di loro dovevano chiamare ad alta voce i passanti usando nomi comuni, come se fossero stati vicini o parenti. All'udire i loro nomi, alcuni si fermarono. Altri si fermarono per curiosità. Gli ufficiali immediatamente uscirono dai loro nascondigli e ne arrestarono 6 indiscriminatamente. Da quel momento la loro sorte fu segnata. Né petizioni, né pagamenti, né preghiere poterono salvarli. Il giorno stabilito subirono la farsa di un banchetto in cui erano ospiti d'onore per poi essere condotti cerimoniosamente agli scavi. Dopo essere stati calati nelle profonde fosse al centro dei nuovi cancelli, il re e la corte si inchinarono profondamente ai disgraziati che tremavano per la paura. Sua Maestà li apostrofò: «Proteggete i cancelli che da adesso vi sono affidati da tutti i pericoli e le calamità. Avvertitemi se traditori dall'interno o nemici dall'esterno cospirano contro la pace di questo popolo o la sicurezza del trono». Mentre il re pronunciava le ultime parole, una grossa trave che era stata sospesa a 2 funi sopra gli zotici scelti per questo dubbio onore fu lasciata cadere e trasformò così i 6 disgraziati di Bangkok in angeli custodi, 3 per ogni cancello. Sarebbe stato difficile persuadere la maggior parte della corte che questa precauzione era inutile, perché il signor Aubaret, dopo la scenata col re, si era dimenticato delle sue minacce o si era calmato. Forse una dose dell'inglese del re lo aveva riportato con i piedi per terra. Scriveva il re: «All'onorevole signor Aubaret, console di Sua Maestà imperiale, signore, l'insulto verbale o le male parole, senza altri passi, che provengano da una persona che sta più in basso, viene considerato molto poco o per niente. La persona che sta sulla superficie del terreno non può fare del male ai corpi celesti o a una lampada o a un globo che si trova in alto, perché sputando dalla bocca verso l'alto farà solo ingiuri al proprio viso, senza toccare i corpi celesti. I siamesi sanno di essere più in basso del cielo e non si azzardano a colpire i corpi celesti con lo sputo delle loro bocche. Una persona che tutti sanno che non ha potere, come quelli che non hanno gambe o braccia per muoversi, o sono sordi o ciechi, eccetera, non possono essere considerati se per pazzia dicono di essere nostri nemici. Ciò potrebbe essere semplicemente considerato agitazione o disagio». Aubaret non disse altro al re e l'ambasciata francese partì per Parigi senza ulteriori interferenze. L'unico sfortunato fu il dottor Bradley, che il signor Obare aveva citato in giudizio per danni perché aveva pubblicato sul recorder la storia del suo colloquio con il re, il quale, nel tentativo di non avere altri guai, aveva proibito a tutti gli impiegati e ai cortigiani di testimoniare a favore del dottor Bradley. Il signor Knox si offrì come avvocato e Anna, che aveva assistito con lui all'incidente, scrisse una lettera per confermare la storia che era stata pubblicata. Inesplicabilmente, queste non furono ammesse come prove dal console americano nel cui tribunale avveniva il processo. Il console, che non conosceva la legge, chiese al dottor Bradley di provare la sua innocenza anziché insistere perché il signor Obare provasse la sua colpevolezza. Quando il dottor Bradley, preso alla sprovvista da questi sviluppi, non poté produrre i testimoni che avevano fornito la storia al giornale, fu condannato e multato. La comunità straniera indignata raccolse i $300 che mandò al dottore per pagare le spese del processo e la multa. Mentre Anna si preparava a lasciare il Siam, le sue considerazioni sulle condizioni della nazione erano le seguenti. Il re stava venendo meno nel corpo e nello spirito, e nonostante l'apparente vigore non c'era salute nel suo comando quando usa le sue maniere. Tutti i successi della sua amministrazione sono dovuti all'abilità e all'energia del suo primo ministro, Fia Kralahom, e anche la sua forza è stata sprecata. Le arti e la letteratura hanno fatto passi indietro e anche nella scienza si è perso molto. Tutta la nazione si dà al gioco d'azzardo. La capacità di miglioramento dei siamesi in ogni direzione è stata dimostrata a sufficienza e il governo ha compiuto dei progressi nelle riforme politiche e morali, ma la condizione degli schiavi è tale da suscitare stupore e orrore. Quale possa essere il destino finale del Siam sotto questo detestabile sistema e se si emanciperà o meno, non c'è modo di dirlo. Ogni volta che guardava il principe Chulalongkorn e altri suoi allievi, la nuova generazione, il domani del paese, si sentiva incoraggiata a sperare. Ogni volta che pensava all'eroismo di donne come Mai Pia e Thup Thiem, alla gentilezza di Lady Tiang, all'idealismo di Song Klin, sapeva che non erano inferiori a quelli delle donne di nessun altro paese, ma il sistema sotto cui vivevano, quello era il nodo. I suoi trionfi personali sembravano piccoli, ma lei era felice per ognuno di essi. Era felice di avere restituito la piccola Mai Cao al padre. La bambina bianca che aveva comprato all'asta solamente per perderla nel fiume era ricomparsa all'improvviso. Anna e Boy stavano cavalcando sulla nuova strada quando avevano incontrato Montani con Mai Cao in braccio. Adesso era sposata a un mercante cinese che amava lei e la bambina. Anna aveva chiesto a Montani di portarle la bambina e il giovedì seguente erano andate a trovarla. Lei le aveva fatto indossare degli abitini inglesi che aveva cucito per lei stessa e in testa le aveva legato un nastro azzurro. Madre e figlia ne furono deliziate e in seguito tornarono spesso. Alla fine Anna, attraverso J.C. Campbell, l'ispettore di Dogana, aveva trovato il capitano George Davis che convinse la sua ex moglie a dargli la bambina perché la portasse in Inghilterra. Un anno dopo, Anna aveva ricevuto da Liverpool una lettera del capitano in cui scriveva che lui e la figlia erano nella sua terra nativa e che la bambina era felicemente affidata alle cure della madre. Alcune domeniche prima era stata battezzata Anna Harriet come la donna che l'aveva restituita al padre. Nell'ultimo anno trascorso in Siam ebbe luogo l'avvenimento più significativo del soggiorno di Anna. Il 3 gennaio Lady Song Klin la invitò a cena. Come al solito firmò il biglietto Harriet Beecher Stowe. L'invito in sé non era insolito, ma lo era l'importanza che vi dava Lady Song Klin. Per tutto il giorno mandò messaggi ad Anna per ricordarle l'appuntamento finché Anna fu sicura che si trattava di qualcosa di molto importante. Dopo la scuola si vestì e preparò Louis con gli abiti migliori per onorare la ricorrenza. Lady Song Klin li stava aspettando affacciata alla finestra. Come comparvero, si affrettò ad andare loro incontro coi suoi modi dolci e cordiali. La cena fu servita nello studio. Erano presenti due sorelle di Song Klin che vivevano con lei e il gruppo era composto di 6 persone. C'erano solo 5 sedie attorno al tavolo e il principe Krita e Louis ne divisero una. Furono serviti da schiave su piccoli piatti d'argento. Dopo un banchetto davvero sontuoso, seguì lo spettacolo. Non solo le schiave fecero della musica, ma anche Soncline e le sue sorelle. L'aria di eccitazione repressa che aveva pervaso la cena continuò. Anna si rese conto che anche la musica era il preludio di qualcos'altro. Quando finì, Lady Soncline si alzò e portò Anna in giardino. Lì, in fila, erano inginocchiati tutti i suoi schiavi, 132 fra uomini, donne e bambini. Ognuno era vestito con abiti nuovi e dai colori vivaci, sembrava palpitare della stessa segreta eccitazione che faceva tremare la mano di Lady Soncline in quella di Anna. Con un'occhiata ad Anna, iniziò a parlare con voce suadente, gli occhi che brillavano. «Desidero», disse, «essere brava come Harriet Beecher Stowe. Non voglio più comprare corpi umani, ma solo liberarli una volta per tutte. Quindi da questo momento non ho più schiavi, ma servi pagati. Concedo la libertà a tutti coloro che mi hanno servita di andarsene o di restare se lo vogliono. Se andate a casa ne sono lieta, ecco i documenti che vi consegnerò. Siete liberi. Se restate con me, ne sarò ugualmente contenta e darò a ciascuno di voi 4 ticala al mese, oltre al cibo e agli abiti». Anna rimase in silenzio con un nodo in gola. Era stata presa completamente di sorpresa. Anche se avesse insegnato soltanto a questa donna, sapeva che i 5 duri anni erano stati ampiamente ripagati da quello che aveva visto. Di certo era un segnale per il futuro. Fino all'ultimo Anna aveva aspettato a informare le donne e i bambini della sua partenza. Il giorno in cui diede l'annuncio, a malapena aveva il coraggio di affrontarli. Per un po' la maggior parte di loro rifiutò di credere che stava davvero partendo. Quando non poterono più dubitare, le diedero tali dimostrazioni di affetto che ne fu sopraffatta. Le fecero doni di ogni genere, molti mandarono piccole somme di denaro per il viaggio, gli schiavi più poveri portarono cibo. Anna cercò di dire il più gentilmente possibile che non poteva portare tutto con sé, tuttavia i doni continuarono ad arrivare finché si convinse di avere provviste per l'intera nave. Persino Nailek, il nano, arrivò con il suo contributo, una noce di cocco. Il re non si fece sentire fino alla mattina della partenza. Alla fine cedette, abbracciò Boy e gli diede una fibbia d'argento e una borsa che conteneva $100. Poi, voltandosi verso Anna, disse: «Mem, lei è molto amata dalla gente comune, dagli abitanti del palazzo e dai miei figli. Tutti sono tristi per la sua partenza e anche il segretario che mangia l'oppio, Pra Alak, soffre perché se ne va. Deve essere perché è davvero una brava signora. Sono spesso arrabbiato con lei e perdo la pazienza, anche se la rispetto molto. Ma comunque deve sapere che è una donna difficile, più difficile di molte. Ma dimenticherà e tornerà al mio servizio perché mi fido di lei ogni giorno di più. Addio». Anna non riuscì a rispondere. Aveva gli occhi pieni di lacrime. Si rese conto che era accaduto quello che non aveva creduto possibile. Lei e il re erano più di un impiegato e un datore di lavoro, di re e governante. Erano amici. Monkut l'accompagnò al tempio perché salutasse le donne e i bambini. Si inginocchiarono davanti a lei piangendo, riempiendo la grande stanza. La situazione era già difficile, ma quando il re si ritirò, lo fu ancora di più. Le furono tutti intorno, abbracciandola, mettendole in mano bigliettini e regali dell'ultimo minuto e rimproverandola con le lacrime per il suo abbandono. Anna non ce la fece più, corse fuori oltre i cancelli dove non potevano seguirla. Ma le voci la raggiunsero. «Ritorni», dicevano, e i bambini: «Memcha, non vada via, non ci lasci». Si recò dal principe Chulalongkorn Longhorn per il commiato più difficile. Aveva già affidato a lui molti dei suoi poveri clienti, soprattutto il ragazzo cinese che aveva battezzato Timothy. Pochi giorni prima il principe le aveva scritto un biglietto nel suo inglese più attento. Bangkok, 1 luglio 1867. «Mia cara signora Leon Owens, le accludo una mia fotografia che spero apprezzi e che spero le ricordi il suo allievo che ha avuto l'onore di istruire così a lungo. Accludo il piccolo regalo di $30 sperando che li accetti e in conclusione posso solo augurarle un viaggio piacevole e veloce in Europa e che al suo arrivo trovi ogni gioia. Spero di rimanere il suo amico fedele, Chao Fa, Chulalongkorn». Il suo dispiacere sembrava troppo profondo per le parole, riuscì solo a dirne poche. Prendendole entrambe le mani e posandovi sopra la fronte, dopo un lungo intervallo di silenzio, disse: Mem Cha, per favore, ritorni. Mio principe, conservi il coraggio e la nobiltà d'animo, fu tutto quello che riuscì a dire lei. Il 5 luglio 1867 Anna e Boy lasciarono Bangkok a bordo dello Chao Phya. Incerta sul futuro, aveva venduto i suoi beni a un'asta. Tutti i suoi amici europei l'accompagnarono lungo il fiume fino al golfo. Poi, sulla stessa nave che li aveva portati 5 anni prima, rimasero soli, lei e Boy, a guardare la riva scomparire lentamente fino a diventare una sottile linea grigia. 40. Una promessa mantenuta. Anna raggiunse l'Inghilterra in settembre. Entro la fine di ottobre era stata dal cugino del marito a Enniscorthy, nella contea di Wexford. Aveva sistemato Louis alla Kingstown School e si era imbarcata per New York con Avis. Il dottore le aveva detto che aveva bisogno di un clima più corroborante dell'Inghilterra o dell'Irlanda e il signor Cobb, che nel frattempo si era sposato, l'aveva invitata ad andare negli Stati Uniti. Aveva deciso che avrebbe potuto ritornare in Siam anche da lì. Dopo essere stata dai Cobb e dai Mattoon, i suoi vecchi amici di Bangkok, lei e Avis andarono sui Catskills a respirare l'aria di montagna. Anna era bruciata dal sole dei tropici, anche i suoi abiti erano diversi da come esigeva la moda. La gente del villaggio sussurrava che era una ex regina della Siria che viveva in incognito ed era favolosamente ricca. Per lei e per Avis era la prima esperienza della neve e del ghiaccio. Soffrivano per il freddo, ma lo scenario le incantava. Il fiume Hudson, parzialmente gelato, il bianco senza fine con le ombre azzurre, i sempreverdi. Anna si era già messa a lavorare a un libro sulle sue esperienze in Siam. Aveva scritto al re per stabilire le condizioni per il ritorno. Dopo averci riflettuto, aveva concluso che non poteva ritornare se il suo stipendio non fosse stato adeguato e gli accordi chiari. Louis non era entusiasta che lei tornasse là senza di lui. Le scrisse dall'Irlanda. 28 aprile 1868. Spero che non torni in Siam perché sarai in un posto molto pericoloso e io sarò sempre infelice pensandoti in mezzo a quei francesi che ti odiano e forse potrebbe venire un rapinatore e farti qualcosa. Oppure mentre passeggi uno di quei preti potrebbe dirti qualcosa di poco gentile o forse una mucca o qualche strano animale potrebbe venire verso di te o potrebbero succederti tutte queste cose e io cosa farei? Potrei solo morire. La lettera del re arrivò alla fine di maggio e non fu del tutto soddisfacente. Era l'ultima lettera che doveva ricevere da lui. 8 febbraio 1868. A Lady Anna Leonowens e a suo caro figlio Louis. Cara signore, caro Louis, ho appena ricevuto la sua lettera datata 2 novembre. In queste settimane sono molto occupato, come detto nelle precedenti righe stampate. Le spoglie del mio ultimo compianto figlio sono state appena cremate. La cerimonia dell'inaugurazione delle reliquie è ancora in corso e i suoi resti torneranno a palazzo stasera. Per quanto riguarda la sua richiesta, ho dato risposta verbale attraverso il signor Mason, fra Siam Turabat, il console per il Siam a Londra, che ritornerà al suo posto domani mattina. Non posso scrivere completamente perché sono molto occupato. Voglio dire che desidero soddisfare i suoi desideri, ma temo che non possa tornare in Siam presto e molti stranieri possano dire che ho poca testa e sono ricco di denaro, eccetera, e possano darmi molti guai in molti modi. Quindi è meglio che si indebiti con qualcuno a Londra e quando arriverà qua le potrò dare il prestito richiesto, subito e di più se vuole. Posso prestarle $200 liberamente, ma forse no. Spero di rimanere il suo fedele Moncut. In 6115 giorni del regno. Avis era malata, perciò il ritorno in Siam avrebbe dovuto essere rinviato. Anna scrisse al re e rinviò la sua decisione finché la sua posizione non fosse stata chiarita. Sua maestà quell'estate era impegnato con i preparativi per una spedizione a Hua Wan nel sud del Siam per assistere a un'eclisse totale del sole. Il governo francese aveva chiesto il permesso di mandare un gruppo di scienziati dal momento che quello doveva essere il luogo in cui l'eclisse si poteva vedere meglio. Sir Harry Horde, governatore degli stabilimenti della Malesia, e Lady Horde vi si recarono da Singapore col loro seguito. Parteciparono anche il console inglese e francese e altri importanti europei di Bangkok. Erano tutti ospiti del governo siamese. L'eclisse avvenne il 18 agosto. Dopo che il re e il suo seguito tornarono a Bangkok, lui si lamentò di un mal di testa. Alcune settimane dopo fu evidente che era seriamente, forse mortalmente malato. Furono convocati il dottor William Campbell, che aveva preso il posto del dottor James Campbell, suo cugino, e il dottor Danbridge Bradley. Ma non fu permesso loro di fare prescrizioni al paziente. Entrambi erano convinti che la febbre sarebbe diminuita con il chinino, ma non fu usato. Il 1 ottobre 1868 il re morì all'improvviso mentre si trovava da solo con il figlio adottivo Phya Burut. Prima, quella stessa sera, i ministri di Stato e Krom Luang Wongsa erano stati al suo capezzale. Il re aveva già dettato in Pali un addio all'ordine buddista. Sicuro che la morte fosse vicina, il re aveva solennemente imposto ai suoi ministri la cura del suo figlio maggiore, il principe Chulalongkorn, e del regno. Non aveva chiesto di eleggere il principe come successore, ma i suoi desideri a questo proposito erano ben conosciuti. Aveva solo detto che sperava che i Senabodi avrebbero scelto come successore qualcuno che conciliasse i diversi partiti del regno, così che alla sua morte non seguisse una guerra civile. Poi disse che stava per finire il suo percorso e pregò di non dare inizio ai pianti né mostrare sorpresa perché se ne andava in quel modo, in quanto si tratta di un evento che capita a tutte le creature viventi che vengono a questo mondo e non può essere evitato. Poi si girò verso una piccola immagine di Buddha e rimase in assorta contemplazione. La sua voce era così forte che sembrava che la sua ora fosse ancora lontana e gli altri si ritirarono. Il Kralahome osò persino andare a casa per riposare qualche ora. Phya Burut rimase da solo, seduto accanto al re morente. All'improvviso, il re alzò le mani davanti al viso in atteggiamento di devozione. La testa ricadde all'indietro e se ne andò. Anna non tornò mai in Siam. Il re aveva ricordato Anna e Louis con generosità nel suo testamento, ma nessuno dei due ricevette l'eredità. Gli esecutori lo impugnarono e lei ne fu messa al corrente solo perché i suoi amici a palazzo le scrissero e le narrarono le circostanze. La notte in cui il re morì, i Senabodi elessero come successore il principe Chulalongkorn. Il principe, che aveva 15 anni, era ammalato anche lui. A poco le forze gli tornarono e l'11 novembre fu incoronato. Tutti coloro che lo videro rimasero impressionati dalla dignità e dalla mancanza di arroganza. Non doveva avere alcun potere, è vero, fino al conseguimento della maggiore età, 5 anni dopo. Tuttavia i Senabodi e il reggente, il Kralahome, gli permisero di proclamare un'amnistia di tutti i prigionieri politici, che erano 362. Iniziò subito, tranquillamente e con determinazione, a dichiarare le proprie idee sul futuro del regno. Il secondo proclama stabilì la libertà di religione. La questione della schiavitù fu più difficile, intrecciata com'era al sistema dei privilegi. I grandi nobili del paese, le cui fortune si basavano sulle migliaia di servi e schiavi che avevano a disposizione, non guardarono con simpatia al tentativo di scardinare un sistema che era così vantaggioso per loro. Secondo le lettere che giunsero ad Anna, il giovane re Chulalongkorn affrontò la faccenda con coraggio, ma con discrezione. Apprese che aveva detto al San Luang: «Non vedo speranza per il nostro paese finché non sarà liberato dalla schiavitù». Rimasero colpiti dalla determinazione del re, ma non furono convinti. Il Kralahome replicò: «È impossibile liberare una nazione di schiavi senza provocare molti rischi e pericoli per lo Stato e per coloro che possiedono gli schiavi. Per le leggi vigenti, il Siam non potrebbe abolire il sistema della schiavitù senza minare al tempo stesso tutta la Costituzione». «Bene», rispose il re. Lasciamo stare per il momento, ma i miei schiavi, i miei soldati e i miei debitori sono i miei, e quantomeno io li libererò, qualsiasi cosa ritengano di fare i miei ministri. Per parte mia, nessun essere umano dovrà mai più essere marchiato col mio nome. Dopo molte altre discussioni, il reggente e i Senabodi furono d'accordo per un processo graduale per abolire la schiavitù. Il primo pronunciamento pubblico fu fatto dal re, in piedi sul gradino più basso del suo trono luccicante, di fronte ai dirigenti del paese, ai governatori e ai giudici, lesse la sua dichiarazione. Lasciate proclamare questo messaggio reale al paese, e non come se stessimo facendo una cosa grande e nobile, ma il nostro semplice dovere verso i nostri simili e sudditi, che dal primo giorno di gennaio del 1872 la schiavitù cessi di essere un'istituzione nel nostro paese, e che ogni uomo, donna e bambino debbano ritenersi cittadini nati liberi. E inoltre, sia noto che una tassa in rapporto alla situazione di ogni uomo sarà posta sulla nazione per ricompensare i possessori di schiavi per la perdita degli stessi. Prima che venisse proclamato l'atto finale, che completamente e definitivamente faceva cessare la servitù e la schiavitù, bisognò aspettare il 1905. Questo periodo fu necessario per trasformare il Siam da paese feudale a libero. Alla fine, comunque, il re aveva mantenuto la solenne promessa che aveva fatto ad Anna molto tempo prima: se vivrò per regnare sul Siam, regnerò su un popolo libero e non di schiavi. Lady Songklin ne parlò eccitata ad Anna in una delle sue lettere. Nel 1873, quando raggiunse la maggiore età, il re Chulalongkorn Longhorn diede temporaneamente le dimissioni per entrare nel sacerdozio per 15 giorni, come era tradizione. In seguito, sempre secondo tradizione, ci fu una nuova incoronazione che ebbe luogo il 16 novembre 1873. Quella mattina le bande che suonavano dietro i muri bianchi del palazzo e il rombo dei cannoni annunciarono alla gente che Bangkok aveva incoronato di nuovo il suo re. Nella sala delle udienze i principi e i nobili erano prostrati sul pavimento coperto da tappeti, ogni testa era piegata, mentre il rumore assordante si placava. Sua maestà salì sulla piattaforma del trono e fece il primo proclama del nuovo regno. Si trattava di un editto che poneva termine alla prostrazione. Quando il re concluse la lettura, principi, nobili e ministri fecero 3 profondi inchini, come era l'usanza, e poi, in perfetto ordine, si alzarono in piedi e così rimasero, per la prima volta, davanti al loro re. Con queste riforme il re realizzò i sogni che Anna aveva riposto in lui e lasciò la sua impronta indelebile nella storia del Siam. Anna era immersa nella sua nuova vita. Il suo primo articolo, che descriveva alcune esperienze alla corte di Raymond Cut, apparve sull'Atlantic Monthly nel giugno 1869 e fu seguito da The English Governess at the Siamese Court e da The Romance of the Harem. Subito le fu chiesto di tenere delle conferenze. La strada per incontrare le personalità letterarie più in vista di New York era aperta. Conobbe Sarah Horne Jewett, James Russell Lowell, Oliver Wendell Holmes, William Cullen Bryant, Henry Wadsworth Longfellow, Julia Ward Howe e Ralph Waldo Emerson, che così tanto aveva ammirato, il padre delle comunità utopistiche. Nel 1872 incontrò Harriet Beecher Stowe, l'autrice de La capanna dello zio Tom, a casa del signor James Fields. Scrisse a Davis che la signora Stowe, una donna forte ma comune, vestita molto elegantemente, l'aveva abbracciata come se la conoscesse da una vita. Gli anni passarono in fretta, ci furono preoccupazioni economiche ma molte soddisfazioni. Davis si diplomò e aprì un asilo nido a New York. Anna continuò a scrivere, a insegnare, a tenere conferenze, finché Avis sposò un giovane banchiere scozzese, il signor Thomas Fyshe, e andò a vivere a Halifax nel 1878. Nella sua casa in Canada, la signora Leon Owens trascorse il resto della vita. Lewis, nel frattempo, lasciò la scuola in Irlanda e andò negli Stati Uniti, ma non era contento. Disse a sua madre che l'America era superata e partì per l'Australia, dove entrò nella polizia. Ma era uno spirito inquieto e nel 1882 tornò in Siam. Il re Chulalongkorn lo nominò ufficiale della cavalleria e tramite il console siamese fece sì che la signora Leon Owens sapesse che era stato felice di farlo per amor suo. Nel 1881, dopo l'assassinio di Alessandro II, lo zar, lei fu inviata in Russia da The Youth Companion per scrivere una serie di articoli. L'editore le offrì un incarico permanente, ma lei rifiutò. Scoprì che, per quanto amasse New York e Boston, non poteva stare lontano dai suoi nipotini per più di pochi mesi. Fu durante un viaggio a New York che ebbe la gioia di incontrare ancora il principe Krita, all'epoca ambasciatore in Inghilterra. Era andato per una missione speciale negli Stati Uniti e le aveva fatto sapere che desiderava vederla. Lei scrisse a Davis ad Halifax raccontandole l'incontro. «Sono stata quasi sopraffatta dalla sua accoglienza. Dopo i primi saluti, il principe ed io abbiamo parlato del Siam. Mi ha detto che se fossi tornata avrei stentato a riconoscere il luogo e la gente, per quanto erano cambiati in tutti i sensi. La prostrazione, la schiavitù, l'imprigionamento di mogli e figli per i debiti del padre o del marito erano stati aboliti, erano stati costruiti canali, strade, scuole. Ha aggiunto anche che questo era il risultato del mio insegnamento al nuovo re e alla famiglia reale. Mi sono informata dei miei allievi e con gioia ho scoperto che non meno di 10 principi occupano posizioni importanti sotto l'attuale re e che lui stesso ha una carica di rilievo come ministro degli esteri. Mi ha fatto felice dicendomi che Louis si sta rendendo utile al re in ogni modo e che i suoi uomini gli vogliono bene e che ora non solo parla, ma scrive anche il siamese correttamente. Mi ha detto che il re gli aveva chiesto di informarsi su di me e di cercare di vedermi e ha aggiunto: Mem, se ha bisogno di denaro, in qualsiasi momento deve farlo sapere a Sua Maestà, perché dice che tutto quello che ha imparato di buono glielo ha insegnato lei. 30 anni dopo aver lasciato il Siam, nel 1867, Anna Leon Owens vide di nuovo il suo allievo più importante. Stava andando a Lipsia col più grande dei figli di Avis quando il re Chulla Longcorn arrivò a Londra. Ebbe un colloquio con lui il 19 agosto 1897 alle 2:15 del pomeriggio. Fu un altro memorabile giorno della sua vita. Il re regnava da 29 anni, un uomo grave, deciso e tranquillo, che aveva ottenuto molto nonostante le avversità. I nobili, cui aveva tolto i privilegi, in segreto lo osteggiavano. I francesi avevano proseguito a depredare il Siam, acquisendo territori al minimo pretesto. Tuttavia, il lavoro di riforme era continuato. C'erano scuole in tutto il regno, i missionari erano stati incoraggiati a organizzare scuole e ospedali, furono migliorati i trasporti, i tribunali erano stati riorganizzati, a poco ufficiali istruiti presero il posto dei vecchi amministratori feudali. Tutto il sistema di governo era stato riformato, le forze militari modernizzate, i giovani venivano mandati a studiare all'estero e venivano assunti insegnanti dall'Europa e dall'America. Già durante la sua vita, i siamesi dicevano che Chulla Longcorn era stato il più grande re del Siam. Quando si spostava per Bangkok in processione, stendevano sulla sua strada riso misto a fiori, il più gran tributo. Fu quindi con sentimento di profonda gratitudine e di umiltà che Anna gli sentì dichiarare che era grazie ai principi che lei gli aveva trasmesso col suo insegnamento che aveva trasformato il regno. Aveva mantenuto la promessa di creare un Siam libero. Non era stato facile, c'era ancora molto da fare, ma nel Siam la corrente del cambiamento era profonda, forte e sincera, ricca di promesse per il futuro. Perché era un cambiamento basato sull'idea del valore dell'essere umano che Anna aveva instillato nel monarca, un cambiamento basato su principi democratici. Anna cercò di immaginare il futuro del paese dove aveva passato gli anni più difficili della sua vita e fu soddisfatta. Fine.